Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La questione meridionale, eterna e irrisolta questione che accompagna la storia d'Italia fin dall'unità, appare e scompare nell'agenda dei governi, se ne occupano studiosi, storici, politici ed economisti e vengono ciclicamente riproposte analisi e riflessioni di padri del meridionalismo, tra cui Giustino Fortunato e Gaetano Salvemini. Ultimo interessante saggio in ordine di tempo che ci riporta diritto al cuore del persistente ed irrisolto divario tra nord e sud del paese è appena pubblicato dal Mulino, titolo Lezioni sul meridionalismo nord e sud nella storia d'Italia, a cura di Sabino Cassese. Vi sono contenuti diversi saggi, frutto di lezioni tenute al Centro Guido d'Orso ad Avellino tra il settembre del 2015 e il febbraio del 2016. Saggi che regano la firma di diversi studiosi e che si concludono in appendice con due testi di Antonio Giolitti e Giorgio Napolitano. Questa è la situazione dell'economia del nostro Mezzogiorno. Secondo il rapporto Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, del 2015. La crisi restituisce un paese ancor più diviso e diseguale. I consumi delle famiglie meridionali sono diminuiti dal 2008 al 2014 di oltre 13 punti percentuali, una flessione più che doppia di quella registrata nel resto del paese. E gli investimenti sono diminuiti cumulativamente nel Mezzogiorno del 38,1%, circa 11 punti in più che nel resto del paese. La flessione dell'attività produttiva è stata molto più profonda ed estesa nel Mezzogiorno, con effetti negativi che appaiono non più solo transitori, ma strutturali. La crisi ha depauperato le risorse del Sud e il suo potenziale produttivo. La forte riduzione degli investimenti ha diminuito la sua capacità industriale, che, non venendo rinnovata, ha perso ulteriormente in competitività. La lunghezza della recessione, la riduzione delle risorse per infrastrutture pubbliche produttive, la caduta della domanda interna, sono fattori che hanno contribuito a indebolire fortemente l'apparato economico delle regioni del Mezzogiorno, colpendo non solo le imprese inefficienti, ma lambendo anche le imprese sane e tuttavia non attrezzate a superare una crisi così lunga e impegnativa. Il rischio è che il depauperamento di capitale umano, sociale, imprenditoriale e finanziario potrebbe impedire all'area di agganciare la possibile nuova crescita e trasformare la lunga crisi in un nuovo equilibrio al ribasso di minore sviluppo e minore benessere. Un divario che affonda le sue radici dunque nella storia dell'unificazione, come osservava Antonio Gramsci, che alla questione meridionale dedicò non poche delle sue analisi, contenute sia nel saggio del 26, poco prima dell'arresto, che nei quaderni del carcere. La nuova Italia aveva trovato in condizioni assolutamente antitetiche i due tronconi della penisola, meridionale e settentrionale, che si riunivano dopo più di 1000 anni. Da una parte, la tradizione di una certa autonomia aveva creato una borghesia audace e piena di iniziative, ed esisteva un'organizzazione simile a quella degli altri stati d'Europa, propizia allo svolgersi ulteriore del capitalismo e dell'industria. Nell'altra, le paterne amministrazioni di Spagna e dei Borboni nulla avevano creato. La borghesia non esisteva, l'agricoltura era primitiva e non bastava neppure a soddisfare il mercato locale. Non strade, non porti, non utilizzazione delle poche acque che la regione, per la sua speciale conformazione, possedeva. L'unificazione del paese pone in intimo contrasto le due parti della penisola e l'effetto fu l'emigrazione di ogni denaro liquido dal Mezzogiorno nel settentrione e l'immigrazione degli uomini all'estero per trovare quel lavoro che veniva a mancare nel proprio paese. Anche il cinema ci aiuta a entrare in contatto con la realtà del nostro Mezzogiorno, soprattutto i film di impegno civile come Trevico Torino, Viaggio nel Fiat Nam di Ettore Scola del 1973, che racconta la storia di Fortunato, un ragazzo della provincia di Avellino che viene chiamato dalla Fiat per lavorare a Torino. Il lavoro che al paese non c'era, qua ce l'ho, eppure qualche soldo. Ma questo non è stare bene, non è soddisfazione. E ci sono quelli che hanno famiglia con tanti figli, che lavorano con me, che stanno ancora peggio. La miseria, se ci nasci, non te la levi mai. Il lavoro ce lo devono dare dove siamo nati. Dovete dirle queste cose agli altri ragazzi del paese. Abbiamo in linea Adriano Giannola, presidente della Svimez e autore di uno dei saggi che compaiono nel volume dal titolo Mezzogiorno oggi, una sfida italiana. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Allora, Mezzogiorno una sfida italiana, professor Giannola? Eh sì, una sfida. italiana perché la crisi del Mezzogiorno ha trascinato anche il resto d'Italia, cioè non è che il centro-nord stia molto meglio, ha perso 8 punti percentuali di PIL anche lui, è collegato proprio al crollo del sistema del Mezzogiorno. Quindi è la sfida per l'Italia recuperare il Sud a una missione di sviluppo. E infatti, professore, non a caso molti studiosi, ma anche politici, ricordo molte ad esempio affermazioni del presidente Napolitano, hanno sostenuto negli ultimi tempi che l'Italia riparte solo se riparte il Mezzogiorno, quindi non è proprio più, come lei sostiene, una questione relegata al Sud, ma è una questione nazionale. Sì, esattamente, è un recupero di un concetto che per esempio nel secondo dopoguerra, negli anni 50 e 60, era molto presente alla classe dirigente di allora, sia di governo che di opposizione, e che in qualche modo è stata la base per la partenza del miracolo economico. Oggi, in forme diverse, aggiornate, occorrerebbe avere una capacità di pensiero e di strategia simile. Allora, la questione meridionale, di fatto, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è un tema, una questione, un argomento che viene riproposto fin dalla seconda metà dell'Ottocento grazie a un saggio, se non ricordo male, quello di Pasquale Villari, che per primo parlò di questo. Esatto. Ecco, da allora si sono stati fatti passi in avanti o solo arretramenti? Ma guardi, io credo che i passi in avanti siano stati notevoli, sì. Così come notevoli e intermittenti arretramenti. Uno dei più pesanti arretramenti paradossalmente è avvenuto dalla fine degli anni 70 fino alla cancellazione anche formale, oltre che sostanziale, dell'intervento straordinario del 1992. Da allora ci si è illusi che il Mezzogiorno potesse fare da solo, magari con i fondi europei, magari fondi europei che invece di essere aggiuntivi erano sostitutivi di quelli ordinari, e oggi ci si ritrova con un divario che è tornato quello degli anni 50. In realtà, professor Giannola, scorrendo le pagine di questo interessante volume apprendiamo, o meglio, abbiamo una conferma del fatto che poi non di una questione meridionale si tratta, ma di varie questioni meridionali, perché ad esempio all'interno del nostro Mezzogiorno ci sono realtà molto diversificate, la Campania, la Sicilia, la Calabria ad esempio rispetto alle isole, quindi forse dovremmo parlare di questioni meridionali. Sì, questo è vero, però occorre anche fare fornire una trama a queste questioni meridionali che devono essere coerenti a un discorso, a mio avviso, di ripresa complessiva del sistema paese, così come il nord, insomma, il nord-est ha un ruolo molto peculiare rispetto al nord-ovest, e il centro ha le sue caratteristiche, ma tutto insieme la parte cosiddetta dinamica, oggi in crisi anch'essa del paese. E così è il sud, e io credo che occorre raccordare il nord e il sud in una trama, diciamo, nuova, e a mio avviso la trama nuova è la proiezione mediterranea di tutto il paese. E in questa trama nuova le specificità possono correre, per così dire, e percorrere nuovi sentieri di sviluppo. Sì, questo è un tema particolarmente importante per la Svimez, perché appunto lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno è il fondamentale elemento delle vostre analisi. Il rapporto 2015 è stato molto dibattuto nel nostro paese, quindi forse occorrerebbe un nuovo piano industriale, occorrerebbero investimenti in infrastrutture, sì. Forse anche, no? Guardi, dicendolo in molta sintesi, la nostra strategia, che è, per così dire, coerente un po' al discorso, alla missione originaria dello Svimez, è quella di applicare una, chiamiamola così, una logica industriale allo sviluppo, e che oggi a nostro avviso si articola in una precisa strategia di una logistica a valore, cioè che in cui il Mediterraneo, quest'area con grandi problemi, che ci dà grandi problemi, grandi tragedie, contemporaneamente ci offre grandissime opportunità che al momento noi non abbiamo sfruttato per un'incapacità di strutturare una politica logistica nazionale che faccia dell'Italia il perno di una rinnovata centralità mediterranea. E poi una questione, professore, mi scusi se la interrompo, abbiamo quasi finito il nostro tempo, che, sì, di cui non abbiamo parlato, ma che è fondamentale, cioè il ripristino di condizioni normali di legalità. Esatto, ma qui c'è un dibattito che forse di lana caprina, se la legalità determina lo sviluppo, determina, impedisce lo sviluppo, o lo sviluppo consente, sì, di avere maggiore legalità. Ovviamente ci vuole, a nostro avviso, un grande sforzo volontaristico di avviare lo sviluppo che diventi l'alternativa alla alla illegalità, che consenta anche di scegliere in molti casi uno stile, un progetto di vita, così come in altre aree del paese lo è stato possibile. E ovviamente questo è un problema difficilissimo, è il problema un po' anche che ha a che fare con il capitale sociale. A nostro avviso però l'esperienza degli anni 50 e 60 ci dimostra che forti politiche di sviluppo coerenti a un progetto nazionale sono la base fondamentale, irrinunciabile. Bene. Per avvicinarci, diciamo, a questo obiettivo. La ringraziamo molto, professor Giannola, per essere grazie stato con noi, e grazie veramente ancora e complimenti per il libro. Grazie a lei, a presto. Bene, allora grazie a Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia.